Tutte, tutti e tutto, Ciao. abbiamo avuto mezz'oretta di problemi Di tecnici, panico. però adesso siamo pronte a ricominciare. Don't panic. Partiamo con la canzone, la prima canzone della playlist delle Ribelli e rifacciamo tutto. Tutti da capo. Vai, Mercu, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Dai. Eccoci, tornate. Buonasera a Ce tutte, la tutti e faremo, dai. tutto. Abbiamo fatto mezz'oretta del vuoto, convinte di parlare, ma in realtà non ci ascoltava Parlavamo assolutamente fra io e te, ci siamo fatte una nessuno. chiacchierata. Ci siamo fatte una chiacchierata tra di noi. Vabbè, adesso siamo più pronte per presentarci. Io sono Lady J e accanto a me c'è Tecla Yeah, ciao a tutti, tutto. e Giulia Mercu alla regia. Ciao. Vi spiegherò brevemente questa puntata che sarà bella tosta, i contenuti saranno tanti e un pochino difficili da digerire, però fortunatamente abbiamo anche degli stacchetti musicali Gli preparati da questa stacchetti. solita Lady J che palle, cioè sempre lei, che ci regala queste song, perché è bello parlare di me in terza persona, aiuto. Ricapitoliamo i nostri canali. Per chi non Vai. ci ha sentiti prima, allora, Telegram per scriverci anche in diretta e farci delle domande estemporanee, Radio Zam, trattino basso chat, Facebook Radio ZM, Instagram chiocciola le trattino basso ribelli trattino basso ZAM, sito internet www.zam-milano.it. Beh, penso che non siano mai stati detti così bene, credo. Perché li ho scritti perché? Davanti a me sono scritti, se no ciao, mi dimentico ogni 3 secondi quello che devo dire. Certamente. Scusate l'introduzione in questo momento di presentazione fantastico di Lady J, ma a quanto pare il nostro sito oggi va e viene. Noi comunque stiamo registrando, vi manderemo il podcast, quindi state tranquille, state tranquilli, noi ci siamo. Se salta, provate a riavviare la radio, sappiate che ci sono dei problemi. Grazie. Grazie. Perché il disagio ci accompagna sempre, se no che cavolo, non sarebbe il bello della diretta. Esatto. Allora, dopo le presentazioni dei nostri canali, io direi che è arrivato il momento di presentare anche la nostra puntata. Il tema che affronteremo oggi è il titolo? Egemonia sui corpi. Il tema che affronteremo è molto delicato, ne abbiamo anche discusso a lungo durante la preparazione della puntata, perché sarebbe, sebbene il tema è sempre legato alla questione femminile, e noi ribelli siamo tutte donne, per ora... comunque è un tema molto legato anche a una questione di classe sociale, la questione razziale e antropologica. Abbiamo voluto accuratamente scegliere le parole giuste anche per la promozione della nostra puntata e per non incappare nella facilissima narrazione delle notizie in maniera molto superficiale o dal punto di vista esclusivamente occidentale, giudicante o di superiorità sociale e etnica. Il tema quindi è l'egemonia sui corpi, ne tratteremo nel nostro breve tempo a disposizione, anche se ci sarebbe da parlarne per secoli, dal punto di vista nostrano, quindi italiano, seguendo i casi italiani più eclatanti di spose bambine, madamato, il matrimonio riparatore, e anche dal punto di vista legislativo, come nel primo intervento. Esploreremo anche cosa succede nel mondo, nel 2020 ad oggi, in alcune zone del nostro pianeta, come viene affrontato questa egemonia sui corpi femminili, o anche se la questione proprio non si pone affatto, che quindi non si pone proprio il problema di questa egemonia sul corpo femminile, fino ad arrivare a ciò che sta succedendo ora in America. Quindi cercheremo di fare anche una panoramica di quello che sta succedendo in questi giorni, partendo sicuramente dal caso di George Floyd e analizzando quello che ne è scaturito di conseguenza, quindi sempre in ottica di egemonia sul corpo, in questo caso specifico ha fatto giustamente esplodere la bolla, portando in piazza e per le strade delle città milioni di persone, riportando alla luce una delle questioni più vecchie del mondo, ma sempre comunque tenuta in sordina e mai risolta, che è quella dell'odio razziale e della supremazia del bianco che si crede sto cazzo. Questo sto cazzo è proprio... Ah. Tecla, volevi aggiungere tu qualcosa sulla parte artistica della puntata? Visto che abbiamo anche un bellissimo intervento teatrale. Oddio, ho appena avuto un déjà vu. Questa cosa l'abbiamo già detta. Allora, sì, avremo anche in questa puntata un contributo artistico, teatrale, perché ci sarà una nostra amica, compagna, regista che ci racconterà del caso Franca Viola, parlandoci di uno spettacolo. Non vi rivelo per ora il titolo perché così vi lascio un po' di suspense. E niente, dai, io direi che adesso possiamo lanciare una canzone, Lady J. Ok, quindi sulla scia di George Floyd io direi di far partire James Brown. Oh. Say it loud, I'm black, I'm proud. Put your bad self. Say it loud. Just Eccoci tornate. Ciao ciao. Mi spiace che ogni tanto fa le bizze il nostro internet, però vabbè, è sempre il bello della diretta. Allora, io direi di presentare il nostro primo intervento, il nostro primo passaggio verso l'egemonia sui corpi, e chiameremo Maya. Chiameremo la nostra scoppiettante super energetica Maya. La nostra studentessa ribelle in Gender and Law. Gender and Law, che è bellissimo da dire, e anche il significato è super bello. Yes. Stiamo chiamando. Non so se sta funzionando, ma io sto chiamando. Brown. Senti squillare. Ora sì, squilla. Ora squilla. Vediamo se la nostra Maiuzza. Pronto? Ciao! Eccola! Buonasera! Ma ciao! Ci senti bene? Sì, io mi sento bene, col telefono. Ok. Col telefono. Beh, vogliamo rispecificare che comunque è tutto registrato, quindi se non ci si sente bene dalla radio adesso in questo momento, poi nel podcast sarà tutto perfetto. Lindo e pulito. Sì, infatti, tutti i nostri ascoltatori saranno iperfelici di avere questo podcast disponibile 24h una volta disponibile, scaricata la registrazione. Grande Maya. Ascolta, noi ti chiamiamo perché tu sei una studentessa di Gender and Law. Esatto. Vuoi spiegarci brevemente, prima del tuo intervento, che cosa vuol dire essere studentesse di Gender and Law? Certo, allora, io sto appunto, finché la pandemia me l'ha permesso, ho frequentato questo master a Londra in Gender and Law alla School of Oriental and African Studies. Che figa, dico anche atomica. La provenienza dell'università, perché è molto importante per questo intervento, per l'approccio allo studio che noi abbiamo, perché la School of Oriental and African Studies, detta comunemente la SOAS, nasce come istituto di studi coloniali durante il periodo imperialista inglese, quindi era proprio la scuola, l'istituto all'interno del quale venivano studiate le popolazioni da dover colonizzare e veniva pattuita, veniva fatta quella che Foucault chiamerà violenza epistemologica sulla, appunto, sul dire e capire quali fossero le culture, le usanze, le tradizioni, le leggi di quei posti che si andavano a debellare, stuprare e colonizzare, insomma. E studiare gender and law in una, in una struttura del genere, cosa fa? Ti permette di capire e analizzare tutte le diverse tipologie di violenza strutturale di genere e razziale che esistono ancora all'interno di numerosi, numerosi sistemi di legge, da quello internazionale a quelli più, appunto, più locali. Io in particolar modo per questa volta vorrei parlare di quello italiano. Infatti, perché... vai, sì. Sì, sì, no, perché appunto quello che cercherò di fare in questa puntata brevemente, ma poi nel corso della mia tesi, quando sarà, è di cercare questo punto di collegamento tra il passato coloniale e quindi il nostro sistema, il sistema italiano coloniale legale, e il sistema legale italiano contemporaneo. Uno si può chiedere, ma oddio, le colonie, gli italiani brava gente, ma siamo stati lì per poco tempo e ci hanno pure cacciato con le arti e frecce. Pensate. È vero, cioè, ma non è vero, siamo stati, ci hanno pure cacciato, figurati, ma abbiamo fatto casini sopra casini. E vorrei arrivare a ritroso parlando dei corpi colonizzati in maniera propriamente detta, perché vorrei iniziare da un caso tutto nostro, da un caso tutto italiano. Perfetto. Dal caso di Assunta Casella. Non so se qualcuno all'ascolto ricorderà la vicenda di Assunta Casella, che nel 2016 riemergeva dall'oscurità per un clickbait da tabloid, in cui appunto si parlava di come questa famigerata assassina fosse evasa dai domiciliari per 45 minuti. Da questi articoli di giornali ovviamente è riemersa tutta la storia di Assunta Casella, che è una storia che parla molto delle storture del nostro sistema legale, ma in particolar modo della violenza di genere che abbiamo introiettato sia a livello culturale sia ovviamente a livello legale. Allora, Assunta Casella 50 anni fa era una bambina di 14 anni quando conobbe appunto l'uomo che poi nel 2016 ha ammazzato. Aveva una mamma vedova, un sacco di sorelle e una casa in un paese che si chiama Vivercaro. Sono un paese composto da 2000 abitanti in provincia di Cosenza. Lui invece si chiamava Severino Viora, 1938, quindi aveva 20 anni più di lei ed era un operaio e un contadino. Viveva da Paroldo, una manciata di case in quella fetta di provincia di Cuneo che già respira l'aria della Liguria, una montagna spopolata da dove negli anni 60 scappavano in tanti perché inseguivano un po' il miraggio della paga fissa, della città, della 600 presa a rate. In montagna chi ci restava? I vecchi e gli uomini legati alla terra, quindi gli scapoli per necessità, i cosiddetti signorini che in quegli anni nei retrobottega sfogliavano cataloghi con le fotografie di ragazzi delle ragazze da marito. E che cos'erano queste ragazze da marito? Erano queste mogli da comprare tipo media shopping in tipo postal market. Assolutamente, certo, era un dépliant. Un compro tutto, sì, erano dei pliant in cui potevi scegliere la moglie del sud da poterti comprare, sposare, portare in famiglia e provare appunto a mettere su un'esistenza normale, che non era troppo consona, troppo consueta in ambienti del genere. Quindi Severino Viora è esattamente uno di quei signorini e a Vivercaro scende per conoscere non Assunta ma sua madre. Però probabilmente la madre di Assunta non incontrava troppo i canoni che questo Severino aveva visto nella sua rivista, nel retrobottega. E quindi si rende conto che la madre di Assunta non è una donna da portare a 1000 chilometri di distanza e da sposare. Quindi sceglie Assunta, che allora aveva solo 14 anni. È piccola, non arriva al 1,50 m, è sostanzialmente un'adolescente, una ragazzina. E infatti per portarla via mette mano al portafoglio. La cifra per allora ovviamente è un patrimonio, sono praticamente 10 mesi di paga nell'acciaieria dove lavorava questo Severino Viola, ovvero 500.000 lire. Quindi però Assunta era giovane, quindi era un buon investimento. Come veniamo a sapere queste cose? Chi ci racconta i dettagli di questa vicenda? Una delle migliori amiche è coetanea di Assunta, un'altra bambina che è stata venduta attraverso queste riviste per le spose, o meglio, queste riviste per i mariti. Quindi le sue parole finiscono infatti nelle intercettazioni che vengono disposte per far luce sull'omicidio di Severino Viola. E lei dice: abbiamo la stessa età, quando lui andava a lavorare in fabbrica o al noccioletto, stavamo insieme. Lei aveva molta paura di lui, ma non capivamo molto bene, eravamo ancora molto bambine, eravamo ancora molto piccole. Questa donna quindi conosce tutto della storia di Assunta. I dialoghi ricostruiscono appunto i primi anni di Assunta a Paroldo, cioè la scena del matrimonio in cui si racconta che questa Assunta esce di casa vestita di bianco credendo di andare a fare la cresima perché non si rende conto di quello che le sta succedendo. Incredibile. E poi ovviamente vengono testimoniate episodi di violenza, episodi di prostituzione durante i momenti in cui la famiglia di Assunta, la nuova famiglia di Assunta, viveva dei problemi di tipo economico. Lei era costretta a prostituirsi. Ovviamente tutta questa storia non è mai stata presa in considerazione nell'aula di tribunale, perché appunto le violenze, lo sfruttamento, lo stupro e tutto ciò che è stato pregresso all'omicidio di Severino Viola non vale in tribunale. È Assunta nel 2016 viene condannata a 21 anni e quindi diventa così una seconda condanna dopo la prima, a cui era per mezzo della madre. Quella di Assunta però non è una storia a sé stante, si intreccia a doppio filo con le strutture del nostro sistema legale, che è un sistema fortemente sessista e genderizzato, fin dall'uso dei pronomi. Infatti, se pensiamo ai pronomi contenuti nelle disposizioni di legge, nella dottrina giurisprudenziale si vede sempre che si parla di cittadino e mai di persona, si parla di individuo e mai di persona giuridica. Non si usa ancora quel maschile inclusivo che dovrebbe essere evitato, anche banalmente in seno della proposta di legge che è stata fatta nel 2017 da un tot di senatrici e parlamentari. Ripeto, quella di Assunta è anche una vicenda legale che si lega a doppio filo con una serie di strutture del nostro sistema, e in particolar modo quella del codice strutture contenute nel nostro codice civile, che hanno a vedere con la mancanza di una rivisitazione approfondita del nostro sistema legale. Una stessa mancanza che c'è stata sia per il sistema legale del codice civile, sia per il sistema universitario, sia per il codice penale. Ad oggi noi abbiamo ancora leggi del codice penale che si rifanno alle leggi del fascismo, nonostante si sia similati questa grande rivisitazione durante la Prima Repubblica, che però diciamo che non è stata molto di successo. Insomma, dicevo, la tortura a cui mi riferisco ha anche a vedere con una storia che geograficamente è lontana, ma è anche vicina nella matrice imperialista. Infatti, se si pensa alla storia del codice civile italiano, ci si rende conto che quello che conosciamo ad oggi come il codice civile italiano viene emanato con il regio decreto del 16 marzo 42, che prende le basi a sua volta dalla prima stesura del codice civile del 1872. E il codice civile italiano è una delle fonti del diritto, quindi è da cui, cioè è una delle basi da cui si prende spunto in Parlamento per presentare proposte di legge, proprio per dirla in soldoni. La data, quella appunto del 1862, della prima stesura del codice civile, è abbastanza particolare, perché è contemporanea all'inizio dell'impero italiano in Africa. Infatti, se pensiamo alle tantissime nefandezze compiute durante la missione coloniale italiana in Africa, Sicuramente la pratica più riconosciuta e dibattuta anche in tempi recenti è quella appunto del madramato. Che cos'è il madramato? Non si differisce troppo appunto dalla storia riassunta in questo senso. Il madramato era una pratica diffusa inizialmente solo in Eritrea e successivamente poi nelle altre colonie italiane, ed era una relazione temporanea, more uxorio, tra un cittadino, more uxorio appunto di tipologia maritale, quindi con una moglie, tra un cittadino italiano, soldato prevalentemente, non mai un cittadino che andava per conto suo, perché andiamo a vedere l'Africa quanto è bella, e una donna nativa delle terre colonizzate, chiamata in questo caso madama. Se dovessimo dire che oggi, se una pratica del genere fosse utilizzata, se dovessimo dire che sicuramente si andrebbe contro a forti dibattiti e forti storture di naso, io non ci metterei troppo la mano sul fuoco, visto quelle che sono state le reazioni dopo le diverse rivendicazioni del collettivo politico, una di meno sulla statua di Indro Montanelli. Indro Montanelli si può dire che sia stato il possessore della madama più famosa d'Italia, di Saganeiti, che è diventata famosa proprio unicamente grazie, o meglio per colpa, di Indro Montanelli, perché appunto se ne vantava molto durante le interviste, durante i suoi scritti. Lui parla in maniera orgogliosa della sua esperienza con il madamato e della sua esperienza con Destà. Quindi la storia della pratica del madamato poi non è stata neanche lineare, visti i cambiamenti a cui è stata soggetta. Se infatti in un primo momento quella del madamato era una pratica ben vista negli ambienti militari, per favorire l'integrazione con i popoli colonizzati, un'integrazione che noi oggi probabilmente chiameremmo apartheid, a inizio secolo cominciarono i primi dissensi e le prime espulsioni dalle leghe militari per quei soldati che venivano chiamati arrabbiati, cioè italiani che avevano nutrito troppo affetto per quella madama e quindi che in realtà inizialmente doveva solo soddisfarli da un punto di vista animale, visto che da animali erano raccontate le personalità colonizzate a inizio secolo. Con l'ascesa del fascismo il madamato viene completamente messo al bando. Ed inizia così tutta una trafila di processi e latitanze che porteranno poi alla creazione di innumerevoli pamphlet e rappresentazioni di epoca coloniale e prefascista e fascista, cioè della fase iperiniziale del fascismo, parliamo proprio del 20-21, che appunto avrebbero veicolato poi la narrativa del corpo nero come ipersessualizzato, ipervoraci, iperselvaggio e così dicendo. Ora, qual è il filo rosso che unisce la storia di Destà e quella di Assunta? Come dicevo prima, basti pensare all'articolo 84 del Codice Civile Italiano, che riguarda l'età minima del matrimonio in Italia. Infatti al comma 2 di questo articolo si legge: il giudice, su richiesta dell'interessato, dopo averne accertato la maturità psicofisica e la validità delle motivazioni, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con concreto emanato in camera di consiglio, ammettere al matrimonio per gravi motivi coloro che hanno compiuto il 16° anno di età. Tra i gravi motivi, ovviamente, indovinate che cosa c'è? Guarda, la butto così. Vogliamo provare ad indovinare? Avete una vaga idea? Matrimonio riparatore. Sì, infatti. Il matrimonio riparatore, che strano, prima che Franca Viola lo rifiutasse, era una pratica scritta direttamente dalla legislazione italiana, cioè nel senso era una condanna per le donne, scritta di pugno dai legislatori. Infatti, in particolare, all'articolo 544 del Codice Penale si leggeva: per i reati previsti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che l'autore del reato contravviene alla persona offesa, estingue il reato anche nei confronti di coloro che sono cospiratori del reato stesso. E se c'è stata una condanna, la stessa esecuzione e gli effetti penali cessano. Quindi che cosa si intende per matrimonio riparatore? Si intende una soluzione adottata per sistemare una situazione ritenuta, per una ragione o per un'altra, disonorevole per le persone coinvolte. Per cui appunto si tratta sostanzialmente di un patrimonio forzato. Quali sono le basi e la storia di in questa parentesi della legislazione italiana? Ovviamente la Bibbia. Infatti, ma davvero? Nella Bibbia si legge: Quando una fanciulla vergine, fidanzata ad un uomo, trovandola in città, giace con lei. Condurrete tutti e due alla porta di quella città e lì li lapiderete a morte. La fanciulla perché, essendo in città, non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così estirperai il male in mezzo a te. Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e, facendole violenza, giace con lei, allora dovrà morire solo l'uomo che è giaciuto con lei. Ma non farei nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte, come quando un uomo assale il suo prossimo e lo uccide. Così è in questo caso, perché egli l'ha incontrata per i campi. La giovane fidanzata ha potuto gridare, ma non c'era nessuno per venirne in aiuto. Se uno trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, la ferra e giace con lei e sono colti in flagrante, l'uomo che è giaciuto con lei darà al padre di lei 50 sicli d'argento. Ella sarà sua moglie per il fatto che egli l'ha disonorata e non potrà rifiutarla per tutto il tempo della città. Quindi il versetto 29, cioè il primissimo versetto che ho letto, è una delle prime attestazioni del costume del matrimonio riparatore, e quindi era concepito come una forma di risarcimento in tutela per la donna che, avendo perduto l'onore, non sarebbe più potuta essere presa in moglie di nessun altro uomo. Così invece, appunto, come si può notare, salvi l'onore, perché insomma, certo, salvi l'onore venendo sposato, cioè che cos'è uno stupro nei traumi personali di una persona, per la Bibbia soprattutto. Quindi, scusate, ovviamente tutte queste sono tutte cose ironiche, per un attimino alleviare il mood pesante del codice civile italiano. Ma è una pillola questa, grazie. Sono sempre troppo interventi, sempre abbastanza leggeri quelli che mi scelgo. Quindi il costume del matrimonio riparatore è sopravvisto nella cultura occidentale fino ai tempi molto recenti. In Italia fino al 1981, allorché un uomo commetteva nei confronti di una donna nubile e illibata stupro o violenza carnale punibile con la pena prevista dall'articolo 519 e seguenti, onde evitare appunto il processo e altresì di far cessare la pena detentiva inflitta. Se la ragazza rifiutava la riparazione offerta, subiva il disprezzo sociale e presumibilmente non sarebbe mai più sposata. Quindi lo stupratore, affinché potesse fruire del beneficio di legge, doveva offrire il matrimonio alla ragazza, addossandosi altresì tutte le spese della cerimonia, senza poter pretendere alcuna dote. Tale usanza ovviamente è stata legalmente abolita nell'81 attraverso l'articolo 544. La prima donna a ribellarsi fu appunto Franca Viola, di cui ne parleremo più in là. Cosa si faceva col matrimonio riparatore, quindi? In altre parole, si ammetteva la possibilità di estinguere il reato di stupro, anche a danno di minori. E appunto, se è stato seguito dal cosiddetto matrimonio riparativo, contratto tra lo stupratore e l'offeso. Quindi la violenza sessuale viene considerata un oltraggio alla morale e non un crimine contro la persona, e questo viene considerato fino all'inizio degli anni '80 nel nostro sistema occidentalissimo, iperprogressista, ipersviluppato, ipercivilizzata Italia. Certo. Le distorsioni di questo ipercivilizzato sistema giuridico patriarcale e fortemente sessista hanno portato un sacco di donne negli anni 60 e 70 a dover passare dalla parte di una necessaria illegalità per poter vivere in modo dignitoso, perché è illegale far sposare una 14enne contro il suo consenso e non ammazzare il proprio stupratore e certo, il proprio proprietario. Quindi all'interno della pratica dei matrimoni precoci, di cui l'Italia è stata protagonista e non semplice testimone, come vogliono poi documentare e vogliono far intendere quelli che sono stati i record successivi del Senato della Repubblica Italiana, c'è una misoginia strutturale che è tutta italiana e rispecchia anche alcune delle pratiche coloniali da cui l'Italia è inevitabilmente si è autoassolta, come sicuramente quella del malamato. Quindi in vena di corpi colonizzati si può dire che, per quanto noi siamo donne bianche, cioè l'Italia è composta da donne bianche occidentali e non possiamo assolutamente dire di aver vissuto la stessa discriminazione in alcun modo, possiamo dire che abbiamo percepito gli strascichi di queste strutture patriarcali e imperialiste, perché inevitabilmente i corpi sono sempre terre di conquista, che sono di un colore diverso, che appartenenti a popoli diversi, tanto meglio. Ma anche in casa propria non ci si fa mancare lo stupro. Certo, poi cioè, bisognerebbe anche parlare un po' dell'aspetto psicologico, no? Nel senso Ah, che, certo. perché poi queste ragazzine subiscono dei gravi traumi, no? E beh, enormi traumi psicologici, perché appunto Esatto. Si parla di gravidanze precoci poi, giusto? gravidanze precoci, ma botte, ma tutto precoce, ma traumi precoci, perché già i traumi nella vita non bisognerebbe mai, purtroppo, cioè non bisognerebbe mai affrontarli, ma che ti vengono imposti in una età preinfantile e preadolescenziale. Esatto. Cioè, io appunto non ho voluto, per una scelta politica, leggere e parlare delle modalità attraverso cui Assunta ha ammazzato quell'uomo, perché io sono dell'idea che le modalità che lei ha usato, e non sono affatto efferate, non rispecchiano un millesimo della violenza che lei ha subito per oltre 48 anni della vita sua. No, infatti, assolutamente. Per documentarmi un pochino, farti magari qualche domanda con un senso logico, avevo Sì. controllato gli ultimi, cioè se si googola Assunta Assunta Casella. Casella su internet, i primi risultati che escono dei giornali, insomma, i primi titoli sono assolutamente come per la violenza e l'omicidio, il femminicidio, l'uomo poverino, cioè, si è suicidato poi dopo l'aver ucciso la donna, mentre invece per Assunta Casella è assurdo che lei venga, ma adesso ti leggo anche gli screenshot che ho fatto. Se li Sì, trovo, viene sono. completamente criminalizzata. Sì, assolutamente. Cioè, vabbè, si parla di non una di meno che assolve ed esalta Assunta Casella piuttosto Ho lo che. stesso identico link sotto gli occhi, stavo giusto facendo un'analisi, volevo fare giusto appunto un appunto dell'escalation dei toni sulla base della criminalizzazione, cioè sull'escalation dei toni che è direttamente proporzionale alla misoginia delle testate o appunto di questo sito internet che è testata, non mi va neanche di chiamarla perché si chiama Stalker Sarai Tu, e appunto in cui dicono che si intitola nulla di meno Assolve ed esalta Assunta Casella per un post scritto appunto nel 2019 da nulla di meno, penso addirittura fosse di nulla di meno Milano, che appunto recita: venduta adolescente ad un contadino piemontese per 500.000 lire, ha passato la vita nella nebbia, isolata, sfruttata, costretta ad ogni umiliazione. Quando 50 anni dopo lo uccide, per lo Stato il delitto è un'onta, il rancore è troppo vecchio per giustificarlo. Assunta è condannata a 21 anni di reclusione senza attenuanti. Ad Assunta va una condanna esemplare, nel paese dove ogni giorno almeno una donna muore per mano di un uomo, che poi viene assolto giustificato da un tribunale. Donna, dice la sentenza, non osate ribellarvi. La violenza colpisce voi, dicono gli spot, ma non si può dire chi la fa. Non si può portare gli uomini in questo discorso. Non si può ammettere che una donna senza indipendenza economica non avrebbe trovato nella denuncia, nella separazione, nel divorzio alcuna alternativa. Non passi l'idea che se non avessi agito nell'ombra forse saresti morta prima tu. E poi lui lo avrebbe assolto per l'onore di un uomo ferito. Lo Stato ha scelto. Buon vento, sorella, e buona fortuna. Dai, incredibile. Però appunto questo, ripeto, questo post fu scritto in relazione a, appunto, alla notizia esagerata dell'evasione di questa donna, Sì. quando era l'evasione L'omicida. già dai domiciliari, sì, era l'evasione già ai domiciliari perché gli avevano dato un attenuante dopo un tot di anni, e di, ripeto, 45 minuti. Cioè, la cosa assurda, 45 Sì, minuti. vabbè. Senza senso. Comunque penso che lei abbia avuto più libertà, se così si può dire, per assurdo, dopo aver ucciso il marito. Adesso non è che voglio essere una. Però, vabbè, insomma, dopo 48 anni di Beh, sì, su di abusi, sevizie certo, e di di abusi. sevizie, di. Sì. Vabbè, grazie, Assolutamente. direi che. Grazie Maya. Direi grazie che Maya anche a voi. per il tuo contributo davvero importantissimo. Tra l'altro io sapevo sicuramente della storia di Assunta, ma ovviamente anche a livello legislativo sei stata iper puntuale, super precisa. È incredibile quante cose ci insegni, Maya, ogni volta con i tuoi interventi. Aspettiamo la laurea e la festa per la tesi. Assolutamente, tanto la laurea che sarà? Ci sarà, allora, la consegna della tesi è a settembre, okay. Però la proclamazione vera e propria è a luglio 2021. Beh, direi che comunque ci sei, cioè mi sembri sì. Abbastanza sul pezzo, Maya, secondo me spaccherai tutto. Sì. Speriamo. Va grazie bene. Mille. Direi che grazie mille. Ci salutiamo. Assolutamente, io vi ascolto da casa. E adesso mandiamo una bella canzone. Ciao Maya. Ciao. Un bacione. Un bacio. Ciao. Un bacio. Ciao. Direi che possiamo far partire la prossima canzone. Dai, l'annuncio io. Heart of Glass di Blondie. Thank you. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. If you want more chance. Così tornate. Che a me sei sempre da ridere a caso. Ci sta a ridere almeno. Ma sì, facciamocene una risata. Bene, allora, non abbiamo ricordato che sono le 20:01. Non abbiamo mai ricordato l'orario in questa puntata. Di solito qua abbiamo grandi esempi di conduzione che ci ricordano sempre l'orario. E abbiamo, tra l'altro, una nuova... Anzi, non nuova, abbiamo un change di regia in questo momento. Abbiamo salutato la nostra compagna Giulia ed è arrivata Gioia. La nostra Lady G. Hola. È vero, la nostra... abbiamo il piacere di avere Lady G e Lady Jane vicine vicine. Va bene, bando alle ciance. E chi abbiamo qua? Siamo al nostro secondo intervento. Esatto, abbiamo in linea in questo momento con noi Alessia, amica, compagna e regista della compagnia. Ciao. Eccola. Ciao a tutte, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Alessia, come stai? Bene, grazie, e grazie di questo invito, sono molto contenta di essere con voi a parlare di Franca. Ma grazie a te. E allora ricordiamo che la compagnia del quale sei regista si chiama Attoria, giusto? L'Attoria, sì, giusto. Bene. Che bello il nome, L'Attoria. Molto, sì. Sì. Ma da dove nasce questo nome? Mi sorge spontanea la domanda. Guarda, ormai risale a molti anni fa, perché la compagnia è nata nel 2010, e eravamo in cerca di un nome una sera a Venezia, se non sbaglio, io e Sara Urban, che è l'attrice che ha fondato con me la compagnia, abbiamo visto un'insegna di una trattoria senza il TR, e lì abbiamo aggiunto un L apostrofo, quindi è diventata L'Attoria, anche se è un nome che non piace a tanti, devo dire, quindi a noi piaceva e quindi l'abbiamo scelto, sì. E invece è super particolare. Benissimo, allora tu ci parlerai di un caso molto importante che ha segnato un po' la storia, giusto? Che è il caso Franca Viola. Quindi direi che potrai narrarci un po' la storia di questa donna, no? E a te la parola. Grazie, sì, appunto la storia di Franca Viola è una storia a cui io e appunto Sara Urban, che è l'attrice dello spettacolo, e Chiara Boscaro, che è l'autrice, abbiamo dedicato appunto uno spettacolo che si chiama No, Storia di Franca Viola. E Franca Viola ha una storia che vi confesserò, fino a qualche anno fa non conoscevo. Infatti lo spettacolo nasce un po' da questo, dal fatto di aver scoperto nel 2014, se non sbaglio, la vicenda di Franca, e da lì insieme a Sara abbiamo, diciamo, deciso di farci uno spettacolo, perché ci sembrava una storia molto importante. Per chi appunto non la conoscesse, ne parleremo appunto ora, ma brevemente, Franca Viola è la prima donna che di fatto si è rifiutata di sposare il suo stupratore, nonché rapinatore, in Sicilia nel 1965, perché quindi, appunto, interrompo, praticamente rifiuta il matrimonio riparatore, giusto? Esattamente, rifiuta il matrimonio riparatore, questa pratica che mi aveva stupito scoprirlo, ecco, però perché non lo sapevo, a dire la verità, fino a qualche anno fa, questa pratica che era in uso in Italia fino addirittura al 1981, ossia appunto nel caso in cui una donna venisse stuprata, se appunto il suo stupratore proponeva di sposarla, si offriva di sposarla gentilmente, lei doveva appunto sposarlo e doveva anche ritenersi fortunata, ecco. Anche senza il consenso. Anche lei. Sì, anche senza, esatto, sì, era un modo appunto per riparare all'offesa. E detto questo, era una pratica molto diffusa prevalentemente in Sicilia, ma questa cosa era legale in tutta Italia, e Franca, a soli 17 anni, è stata la prima donna, ragazzina, a avere il coraggio di dire no. Infatti da lì il titolo del nostro spettacolo è diventato No, Storia di Franca Viola, perché di fatto questa è la storia di un no. Esatto, e poi tra l'altro questo no, appunto, come dicevo prima, ha segnato un po' la storia, perché poi l'articolo 544 venne abrogato dopo questo no della Franca, qualche anno dopo, mi pare, giusto? Purtroppo parecchi anni dopo. Ah, parecchi anni dopo, quindi mi sono sbagliata. E viene abrogato nel 1981, quindi quasi 30 anni dopo. La cosa abbastanza paradossale è che appunto io, quando appunto ho scoperto l'esistenza di Franca, questo dato mi aveva scioccato, cioè il fatto che fino al 1981 in Italia si potesse essere appunto violentate e poi sposate senza consenso. Perché, vabbè, 1981 a me aveva fatto molta impressione, perché io sono nata l'anno dopo, quindi ho pensato fino all'anno prima rispetto a quando sono nata io, non so, una donna come mia mamma, che infatti all'età di Franca Viola poteva subire un trattamento come questo, e quindi questo fatto aveva spinto me e appunto Sara a decidere di parlare di questa storia. E infatti lo spettacolo è nato prevalentemente come spettacolo ovviamente di narrazione, spettacolo divulgativo, e abbiamo scelto soprattutto di portarlo al pubblico, ma in particolare portarlo al pubblico delle scuole, dei esatto, ragazzi. Esatto, mi dicevi appunto che lo avete presentato molto nelle scuole, giusto? Sì, perché appunto l'idea è quella di in qualche modo diffondere il più possibile questa storia, che è conosciuta ma non tantissimo. Bravissime. E appunto di portarla prevalentemente nelle scuole per far capire appunto non solo quella che è la storia del nostro paese e anche l'importanza storica che Franca ha avuto, ma in particolare far capire appunto che fino a poco tempo fa le cose in Italia non funzionavano certo. Benissimo, e non che ora però insomma per alcuni punti anche proprio grazie a Franca. Non è che adesso siano molto meglio. Sì, no, stavo dicendo questo, però in realtà appunto proprio grazie a Franca e a altre donne come lei alcune cose sono cambiate, e sono cambiate grazie a un no che è un no del tutto privato, nel senso che sì. Lei era una ragazzina e appunto non aveva scelto in qualche modo di fare politica o di diventare un'attivista. Lei ha detto questo no e poi di fatto si è ritirata a vita completamente privata. È stata comunque un esempio Franca quando ha detto questo, per poi altre donne che hanno subito dei danni sì. del genere. Esatto, infatti poi lo sentiremo in alcuni dei frammenti sì, che giusto. Appunto poi manderemo dello spettacolo. C'è proprio un in qualche modo ha aperto la strada a tanti altri no, ha dato esatto. il coraggio ad altre donne di rifiutarsi appunto di sottomettersi a questa pratica aberrante. Esatto. Beh, direi che allora potremmo o far partire gli audio, oppure in realtà avrei anche una cosa da chiederti prima. Certo. Mi parlavi, mi ricordo, perché noi diciamo i nostri ascoltatori ci siamo sentite telefonicamente insomma per conoscerci, e mi dicevi che ci sono degli elementi scenografici ce la posso fare in questo spettacolo del quale mi stavi parlando, sono molto curiosi, no? Mi stai parlando di questi elementi scenografici, gli indumenti che sono molto particolari, sì. ricordano un po' la violenza sulle donne. Avete fatto sì. dei richiami, no? Durante sì, lo spettacolo. Dunque, la cosa è questa: quando abbiamo di fatto iniziato a parlare di questo spettacolo, io e Sara abbiamo poi coinvolto questa drammaturga che è l'autrice, che si chiama Chiara Boscaro, e che ha scritto per noi uno spettacolo che è uno spettacolo di narrazione, dove appunto raccontiamo la storia di Franca. Ma raccontare la storia di Franca per noi era molto delicato, molto difficile, non solo perché non ci sono tante informazioni su di lei, ma anche perché in qualche modo lei, come dicevamo prima, si è ritirata un po' a vita privata, quindi volevamo in qualche modo rispettare un po' il suo silenzio. Quindi ci siamo più volte chieste come raccontiamo questa storia, e un po' la scelta è stata quella di fare uno spettacolo che non mettesse in scena come una fiction la sua vicenda, ma che la raccontasse e che quindi si ponesse un po' a cavallo tra uno spettacolo teatrale e un momento di divulgazione e quasi di così azione civile. E quindi il riferimento, questo appunto per arrivare alla risposta alla tua domanda, il riferimento poi diciamo scenografico per lo spettacolo è stato qualcosa che fosse a cavallo tra elementi del teatro e invece poi elementi che vengono direttamente dalle manifestazioni di protesta contro la violenza sulle donne. Quindi per esempio usiamo le scarpe rosse, che sono ormai diventate un simbolo diciamo di questa lotta, ma anche per esempio indumenti con sopra le scritte, con diciamo delle scritte al di sopra, anche degli ombrelli, anche delle maschere, e tutti elementi che arrivano da una ricerca ricerca iconografica che abbiamo fatto rispetto a quelli che erano i simboli che sono stati utilizzati negli anni nella lotta alla violenza contro le donne. Si parla degli anni, diciamo, fino al 2012-13. Oggi forse i colori sarebbero diversi, noi abbiamo usato tanto il rosso, magari oggi sarebbe ma il rosso ci sta sempre. Il rosso ci sta sempre, però sicuramente alcuni segni si stanno cambiando, si stanno evolvendo, sì. Questi sono i segni di quegli anni, perché lo spettacolo è appunto del 2015. E quindi poi la scelta è stata questa di, per esempio, Sara usa un megafono un po' di echeggiare una manifestazione politica, al tempo stesso però di ricordare che siamo comunque a teatro, quindi a cavallo, diciamo, tra questi due universi. Bene. E, beh, direi che comunque ci sta aver fatto questi richiami. Io ho visto qualche frammento dello spettacolo che appunto mi ha mandato, visto che l'attrice Sara Urban appunto indossa questi indumenti rossi che richiamano un po' quello che ci hai appena spiegato. Tra l'altro è tutto un monologo poi, giusto, lo spettacolo, no? Sì, esattamente, la scelta era stata, vabbè, anche un po' così nostra di compagnia, perché volevamo uno spettacolo agile, appunto, semplice da portare a spasso, da portare in tournée, e infatti questo spettacolo è nato nel 2015, però fortunatamente ha fatto tante repliche e ne avevamo anche quest'anno in programma, poi insomma l'emergenza sanitaria ha bloccato alcune delle repliche, speriamo di riprenderlo presto. Però appunto l'idea era quella di fare uno spettacolo agile che potesse andare all'interno di un'aula magna di una scuola, così come in un circolo, così come in una sala comunale, e infatti lo abbiamo fatto in tanti luoghi anche non teatrali, oltre che per esempio a Milano è andato in scena al Teatro della Cooperativa e a Teatro Linguaggi Creativi, però diciamo, il luogo non teatrale è il nostro preferito perché ci permette di arrivare a un pubblico anche più ampio. Esatto. E magari non così, sì. Anche perché comunque voi in generale come compagnia trattate tematiche appunto sociali, no? Quindi cerchiamo di fare un teatro che possa anche essere uno spunto di riflessione sul presente, e quindi sicuramente con Franca abbiamo fatto il nostro spettacolo tra virgolette più politico, direi, però anche in precedenza abbiamo sempre cercato di creare un ponte col presente con tematiche che ci stanno a cuore, e in particolare sicuramente quella di genere, e in particolare della violenza di genere è una delle tematiche che più ci preme trattare. E meno male che ci siete voi, allora, mi viene da dire. Grazie, sì, insomma, facciamo nel nostro piccolo, proviamo a fare qualcosa anche noi. Allora, io direi che potremmo a questo punto mandare gli audio della nostra Sara, che io sono molto curiosa, ed è sempre molto bello avere delle testimonianze esterne, soprattutto ci sembrerà di stare magari un pochino all'interno dello spettacolo, no? Sì, infatti abbiamo pensato appunto di farvi respirare un po' l'aria, anche se non è ovviamente la stessa cosa che essere dal vivo, però diciamo meglio di niente, ci accontentiamo in questo momento. Allora vado coi primi due, va bene Alessia? Perfetto, grazie. Io a come raccontarvi la storia di Franca Viola ci ho pensato a lungo. È una storia di maschi e di femmine. È una storia che sembra lontanissima, ma non lo è. È una storia vera e non è certo una storia per bambini. La storia è semplice. Filippo Melodia chiede a Franca Viola, o meglio a suo padre, di sposarla. La risposta è no. Filippo Melodia rapisce Franca, la violenta, e la riporta a casa, disonorata. E una ragazza disonorata non se la prende più nessuno. È destinata a rimanere povera e zitella e additata da tutti. Filippo allora si offre di salvare Franca sposandola. Ma lei risponde, no grazie, a posto, così. Fine. E se io vi dicessi che Franca ha lunghi capelli scuri, occhi profondi ed è la più bella del paese? Se io vi dicessi che Franca ha 17 anni E se io vi dicessi che siamo ad Alcamo, un paese dell'interno della Sicilia? E se io vi dicessi che Filippo Melodia è un mafioso, nipote della temibile famiglia dei Rimi, alleati di quel Badalamenti che fa uccidere Peppino Impastato? E se io vi dicessi che siamo nel 1965? Nel 1965 in Italia è in vigore l'articolo 544 del Codice Penale. L'articolo 544 dice che in caso di stupro di una donna nubile e illibata, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato. E se c'è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. C'è una clausola. L'autore del reato deve accollarsi le spese della cerimonia. Ma che cosa saranno mai due fiori e una torta rispetto a 10 anni di carcere? L'articolo 544 dice che Filippo Melodia, quando si offre di sposare Franca Viola dopo averla disonorata, in realtà sta rispettando la legge italiana. Ok, abbiamo sentito i primi due audio, Alessia, che tu non avrai probabilmente sentito nel telefono. Ma li conosco, fortunatamente. Esatto. E, comunque molto belli. Lei, complimenti a Sara. E grazie. Mentre ho ascoltato questi audio, mi è venuto in mente di chiederti un po' questa cosa qui. Tu mi dicevi delle figure positive maschili, no? Che ci sono all'interno della storia di Franca. E come mai parliamo di figure positive maschili, di questo padre che alla fine sì. La salva Franca, no? Sì. Quindi una figura positiva. Fin dall'inizio della storia di Franca emerge subito la figura di suo padre, che è Bernardo appunto Viola, e di fatto la storia di Franca che inizia tre anni prima, nel 62, lei a 14 anni si fidanza così con questo fidanzatino che è però Filippo Melodia, che è che è in realtà un mafioso, un apparentato della famiglia dei Rimi, e quindi di fatto un po' lei, poi forse proviamo ad immaginarci noi nello spettacolo che forse a lei non piaceva poi così tanto, e soprattutto il padre Bernardo Viola non è contento di questo fidanzamento di questa ragazzina con quest'uomo, e quindi di fatto non accetta la corte di ovviamente ai tempi i fidanzamenti avvenivano in casa, no? Loro si vedevano alla presenza della madre eccetera, però a un certo punto declinano l'offerta di matrimonio di Filippo Melodia e lui non accetta, no? Quindi nello spettacolo lo diciamo, fa una serie di cose, devasta la vigna del padre, insomma lo minaccia con una pistola, ma Bernardo Viola proprio si mette in qualche modo a difendere la figlia, che comunque non voleva sposare quest'uomo, e quindi quando poi lui appunto il 26 dicembre del 65 rapisce di fatto questa donna, questa ragazzina, cosa accade? Innanzitutto la rapisce con 12, un manipolo di 12 persone, che se ci pensate è una follia, la rapisce insieme al fratello, perché sono in casa insieme, e si aggrappa le gambe tra l'altro il fratellino. Sì, esatto, esattamente, e lì lo portano via insieme a Franca, e lì di fatto, e qui sta un dato molto interessante della storia, lei sta via alcuni giorni purtroppo e lì avviene la violenza, e poi questi se ne ritornano, Filippo Melodia la porta a casa come se niente fosse, perché lui si aspetta di fare quella che veniva chiamata la pacciata, ossia le famiglie si incontrano, i due si annuncia il matrimonio e tutto viene condonato, perdonato. Ma cosa fa Bernardo Viola? D'accordo con la polizia, fa la pacciata, quindi fa finta di accettare il matrimonio, e poi il primo giorno in cui Melodia esce di casa pensando di appunto a breve sposare Franca, viene arrestato. Quindi di fatto il padre partecipa a questa, L'ha salvata, sì. E proviamo a immaginarci nello spettacolo cosa possa aver pensato lei, no, il giorno in cui hanno fatto la pacciata con questi genitori che la fanno sposare a quest'uomo, a questo bruto. E invece 24 ore dopo ha scoperto che la sua famiglia era dalla sua parte. E quindi questo padre ha veramente fatto tantissimo per lei. Vi dirò di più, è uscito un libro che si chiama Niente ci fu, di un'autrice che si chiama Beatrice Monroe, che parla di Franca Viola, che parla molto male di questo padre. Dice questo padre in realtà è il tipico padre siciliano, padre padrone, che ha fatto invece tutto, non è assolutamente così. Esatto, e soprattutto Franca Viola, dopo aver letto quel libro, la signora Franca si è arrabbiata tantissimo, ha detto che quel libro non corrispondeva per niente alla realtà. E, anzi, nel 2014, quando Napolitano l'ha nominata grande ufficiale al merito della Repubblica, lei ha fatto un discorso in cui ha ringraziato i due uomini speciali della sua vita, cioè suo padre e poi suo marito, perché la bella notizia è che poi Franca si è sposata, esatto. Si è sposata con l'uomo che amava, con una persona diversa, ecco, stavo per dire, perché sennò... Esatto. E quest'uomo, che è Giuseppe Ruisi, che è un ragioniere che lei conosceva da tanti anni e che pochi anni dopo lei ha sposato, con cui ha avuto dei figli e con cui ha fatto poi la sua vita, ha vissuto la sua vita serenamente, sempre stando ad Alcamo in Sicilia. Però appunto lei dice: ringrazio mio padre e ringrazio mio marito per avermi sposata anche se sapeva di essere in pericolo di vita. Perché è in pericolo di vita? Perché quando Melodia di fatto viene poi arrestato, esce dal carcere, poteva benissimo andare a vendicarsi, invece grazie a Dio non accade, perché Melodia lo fanno fuori, sì. Lo ammazzano e quindi si toglie di mezzo. Tutto bene quel che finisce bene. Tutto bene quel che finisce bene, esatto. Ci ha pensato qualcuno. Senti Alessia, allora io direi adesso mandiamo una canzone per ammortizzare un po' il tutto, sì. E tu rimani in linea con noi e certo. Poi mandiamo gli ultimi due audio, ne parliamo e ci salutiamo. Perfetto. Va bene? Allora perfetto. Direi adesso la nostra Lady J, anzi la nostra Lady G annuncerà la canzone. Beh, ma non la so legge. E provaci. Dai, Lady J, fallo tu. Ma se guarda, veramente. Una birichina. Birricò. Allora, la prossima canzone è Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. My blues away. I'm gonna ride eccoci di nuovo qui. Qua c'era un ritmo scoppiettante, si ballava, si commentava tra l'altro in maniera molto energica sul fatto che comunque Franca Viola, immagino, perché poi ognuno ha il suo modo di reagire, come cazzo ha fatto a 16 anni a denunciare questa sua situazione in un paesino piccolissimo della Sicilia, attorniata da gente che comunque probabilmente sentiva ostile, però è riuscita ad avere la forza di denunciare e di fare quello che ha fatto. Cioè, è incredibile questa cosa. Sì. È incredibile, e soprattutto, come stavo appunto dicendo prima, che un papà di quel tipo di mentalità, poi, che è tipica del sud, no? Dove il padre è praticamente la figura più autoritaria in assoluto in famiglia, e in questo caso si è dimostrato un padre sì autoritario, ma positivamente. Senza nessun tipo di sottomissione, ha salvato questa ragazza, la difesa, mentre a volte i matrimoni combinati in genere venivano promossi dalla famiglia, no? Soprattutto per poi questioni economiche di tipo legale, eccetera. E niente, sì, vai, dici tutto, Alessia, che sei ancora con noi. Sono ancora con voi, sì, certo, no, rispetto a queste considerazioni è tutto giustissimo, in realtà è una storia proprio di persone eccezionali, e nel senso di eccezionali nel senso di persone speciali per il loro tempo, sia Franca sia la sua famiglia, e sono poi, e questo è un po' il messaggio che dà Franca tra l'altro, rifiuta in qualche modo di essere un simbolo di una lotta di qualunque tipo, perché lei dice io ho agito seguendo il cuore, e quindi il messaggio in realtà molto bello della sua vicenda, che poi lei passa anche ai ragazzi in questa unica intervista che ha rilasciato poi nella sua vita, a Repubblica nel 2015, lei dice: io ho sempre seguito il mio cuore, quindi ai ragazzi oggi consiglio di seguire il loro cuore quando sentono che è la scelta giusta. E quindi un no di una persona privata di fatto può veramente cambiare la storia, è quello che cerchiamo un po' di raccontare nello spettacolo, e di raccontare poi in particolare ai ragazzi nelle che scuole. Comunque hanno proprio sì questa possibilità nelle loro mani di fatto di decidere per se stessi, ma anche di apportare dei cambiamenti a ciò che li circonda. Che tra l'altro poi mi dicevi tu dei commenti che ti vengono fatti poi alla fine dello spettacolo dalle ragazzine, no? Dalle studentesse, mi avevi accennato un po' questa cosa, e quindi per curiosità magari potresti raccontarci qualche commento. Sì, in realtà è molto bello, perché poi noi magari facciamo sempre un dibattito dopo e escono delle domande curiose, le donne soprattutto sono, bisogna dirlo, le più interessate, i maschi guardano con uno sguardo tra l'interessato e il... È un po' che non hanno forse il coraggio di parlare, diciamo, per la storia che viene anche raccontata. Certo. E poi spesso le ragazze ci prendono da parte, ci chiedono consigli anche su: ma secondo voi come bisognerebbe agire se succede? E noi giustamente diciamo: guardate ragazze, noi purtroppo facciamo teatro, non è che abbiamo dei consigli, però siamo delle donne più adulte di voi, e quindi forse vi possiamo dire quella che è la nostra esperienza. E quindi di fatto poi si crea un po' questa complicità rispetto probabilmente al fatto che loro vedono rappresentato in grande un problema che poi loro vivono comunque nella quotidianità. Certo, ma quello un po' della sì. Poi quando viene recitato uno spettacolo, soprattutto davanti agli adolescenti, che sono dei catalizzatori di informazioni a quell'età, non sembra, ma in realtà loro, io poi ne parlo anche per esperienza perché lavoro con gli adolescenti e come educatrice, e quindi cioè loro sono apprendono in maniera molto veloce, anche se poi non sembra che stiano ascoltando, ma poi da grandi queste cose se le ricordano, e quindi è importantissimo che voi continuate a proporre lo spettacolo nelle scuole, perché poi tra l'altro è anche una cosa che manca molto secondo me, a livello di le questioni di genere nelle scuole sono sempre un po' mancanti, ce ne vorrebbero molte di più. E con il teatro direi che questo è proprio un ottimo mezzo di comprensione, poi, perché si lavora con le immagini, no? Sì, noi ci proviamo, appunto, purtroppo adesso siamo ferme, però contiamo di riportarlo nelle scuole, perché appunto un po' con questa idea soprattutto è nato, cioè l'idea di divulgare il più possibile una storia che faccia riflettere, anche se la storia di Franca è anche sui libri di testo delle scuole superiori, in alcuni libri. Ma dai, questo però... non lo sapevo. Sì, è stata introdotta. C'è questo aneddoto curioso della nipote di Franca Viola, sua nipote, che un giorno va a casa e le dice: ma nonna, ma sei sui libri? E lei le ha raccontato un po' la sua storia, dicendole appunto questa frase: devi seguire il tuo cuore. Benissimo, allora io direi, per chiudere un po' l'intervento, manderei gli ultimi due audio di Sara. Sì. E vado allora. Questo è lo snodo della storia. Questo è il momento della scelta della protagonista. Sì o no? Qui Franca può davvero cambiare il corso della storia. Se sposasse Melodia, tutte le accuse cadrebbero e lei avrebbe un futuro normale, con un marito che non ama e non rispetta, un futuro di violenze e silenzi magari, ma onorato. Lei però non lo vuole sposare. Franca Viola dice no. Filippo Melodia le ha offerto un candido velo da sposa e lei, ingrata, ha preferito gettare nel disonore entrambi. O meglio, se stessa, perché l'onore lo perde chi subisce certe cose e non chi le fa. Lo snodo della storia è qui, perché nessuna ragazza prima di Franca aveva mai detto no al matrimonio riparatore. Durante il processo, l'avvocato di Filippo Melodia cerca di dare la colpa a lei. «Ma via!» dice Gerolamo Bellavista. «Questa non è una vicenda di mafia, ma una limpida storia d'amore. In quest'aula si chiede di infliggere centinaia di anni di galera a un pugno di ragazzi esuberanti soltanto perché Franca Viola ha perso la verginità. Lei si divertiva con lui, lei ha accettato la sua corte, lei l'onore l'aveva già perso da un pezzo, nei campi, nella vigna, per strada, nel capanno degli attrezzi. L'avvocato Bellavista chiede una perizia per accertare il momento della deflorazione della ragazza. Nei casi di omicidio si chiede all'imputato perché l'ha fatto. Nei casi di stupro si chiede alla vittima perché l'ha provocato. Perché? E Franca è sempre lì al processo. Quando parlano di lei invece che del suo aguzzino. È vestita di scuro, ha i capelli coperti, gli occhi bassi. Il suo avvocato le ha consigliato di non farsi vedere in giro, di non dare adito a chiacchiere, che fuori ci sono i curiosi e i giornalisti. E lei, con quel no, ha tirato un bello schiaffo in faccia alla mafia. Eh sì, perché quel no grazie a posto così sembra una cosina da niente. Sembra un capriccio quasi. Ma quel no farà la storia, perché Franca lo vince il processo e Filippo Melodia e i suoi complici si prendono mezzo secolo complessivo di condanna. E lui si farà 10 anni di carcere, poi uscirà, poi lo uccideranno, non si sa bene perché. Lupara bianca, diranno. Ma in questa storia non c'è più posto per lui. La nostra storia va avanti. Va avanti con altre ragazze rapite e violentate che dicono no grazie a posto così. Tra il 1965 e il 1966 sono 41 i casi di rapimento in Sicilia. La metà di queste ragazze, dopo Franca Viola, dice no al matrimonio riparatore. E voi direte, bene, o finalmente. L'articolo 544 viene abolito nel 1981, 20 anni dopo, 40 anni fa. 40 anni fa non è niente. Eh sì, 40 anni fa non è niente. Guarda, ho che la brividi. Pelle d'oca. Sì, pelle d'oca veramente. Sì. E... dobbiamo vedere lo spettacolo, Alessia. Io mi auto come invito. Si dice mi auto invito, no sì, assolutamente mi auto invito alla prossima al prossimo spettacolo che farete. Comunque mi auto denuncio, non ho visto ancora, ma sono davvero molto interessata e curiosa. Guarda, grazie e speriamo appunto di riprendere presto le repliche, sicuramente vi inviterò e appunto sono insomma contenta che vi abbia appunto interessato, perché un po' l'idea è questa, di in realtà fare un servizio alla storia, cioè la nostra idea è portiamo a spasso questa storia, facciamola conoscere, e quindi se appunto riusciamo in qualche modo a incuriosire rispetto al tema e rispetto a una vicenda che è drammatica ma che fortunatamente ha un lieto fine, ne siamo assolutamente felici. Benissimo Alessia, guarda, io non so come ringraziarti, veramente di cuore, è stato un intervento molto esaustivo e direi che si potrebbe andare avanti un'altra mezz'ora, direi, a fare commenti, ma certo, il tempo è poco e stringe. Vi ringrazio moltissimo per l'invito e grazie e anche complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Per la nostra, perché ci sei anche tu nelle certo, ribelle. Sei anche tu una ribelle. È vero, sì, è vero, in parte sì, quindi grazie però, grazie per l'invito. Grazie a te. Ciao Alessia. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma che meraviglia. Mamma mia, veramente, è stato... veramente sarei andata avanti ancora. È sempre un pugno nello stomaco, sì. Però diciamo che è portato a... parlarlo tra noi, tra donne, parlarne anche per renderlo un discorso che sia... non distruzione, però per la gente, perché per chi lo ascolta deve essere, cioè, è sicuramente più leggero, ecco. E poi speriamo che soprattutto dopo anche questo intervento abbiamo aiutato la nostra Alessia a promuovere la storia. Certo, sì. E questo anche un po' lo scopo della radio, per questi lavoratori dell'arte che sono gli ultimi del carro, poverini. Esatto. Bisogna assolutamente che ritornino ai propri lavori. Li aspettiamo con ardore anche qui a ZAM tra l'altro, perché lei aveva proposto, mi pare, lo spettacolo a ZAM tempo fa. Perché me lo disse e quindi direi che appena qua, si potrà, appena si tornerà a una vita diversa ma normale, Alessia potrà proporre il suo spettacolo a ZAM. Bene, io direi che adesso possiamo mandare un po' di canzoni. Una bella cazzone. Don't Call Me Up di Mabel. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more now, I let go. Nah, nah, nah, nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. so don't call me up. Cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah, don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then, and now you're trying to hit me up again. Nah, nah, nah, nah, I'm over. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not enough to get up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now I'm not picking up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Eccoci tornate. Sono un po' in disagio cuffie, però ci sono. Ma nel mentre facciamo 10.000 robe, mentre ci sono le canzoni, non ce le godiamo neanche, porca miseria. Madonna, veramente, oh, mannaggia. Allora, passiamo subito al terzo intervento, che è uno sguardo sul mondo, quindi... un po' internazionale, parleremo... internationale. Esatto, siamo international. Nation. Parleremo di esempi di colonialismo sul corpo e il primo intervento di questo terzo punto sarà sul Messico, riguardante il Messico. Chiamiamo subito la nostra ribelle, Andrea. Allora io vado, No, ho sbagliato, stavo chiamando un'altra persona. perché dovete sapere che di Andrea in questo mondo ne esistono un po', quindi... Allora, eccola qua. No, non è per sminuire, povera Crista, però ho mille Andrea in rubrica. Allora, dovrebbe suonare adesso, Buonasera, eccola. Eccola qui. Ciao Andrea. Ciao. Come stai? Ci senti bene? Sì, sì, adesso sì, mi sento. Perfetto, anche noi ti sentiamo molto bene. Forte e chiaro. Puntata molto molto pesante. C'è da trattenere il fiato ogni tanto, Sì. Ogni tanto sì, effettivamente. Anch'io ho delle cose abbastanza agghiaccianti da dirvi. E oggi, appunto per queste tematiche, io sono solo la voce di una ragazza messicana che purtroppo non può essere in radio con noi oggi perché lavora, però teneva a sottolineare, insomma, quello, a dare un po' un'infarinatura di quello che sta succedendo in Messico in questo momento. Esatto, allora io direi che vai avanti tu con le tue gambe, adesso ci parli speditissima. Sì, molto, ne parlerò molto brevemente perché chiaramente poi lei magari poi ne approfondiremo la tematica, eccetera. Certo. Però fondamentalmente lei teneva a sottolineare il fatto che in Messico c'è un gravissimo caso, ci sono degli altissimi casi di prostituzione infantile e anche di matrimoni infantili. Cioè circa 7 milioni di donne tra i 12 e i 17 anni in Messico sono sposate o vivono in una situazione di concubinato. Stiamo parlando di 7 milioni di donne, okay, oggi, un numero agghiacciante. E infatti, appunto, ci sono queste due grandissime problematiche per le quali alla fine non c'è una reale tutela da parte della legislazione messicana dal punto di vista appunto dei diritti umani e infantili. E lei mi ha sottolineato appunto di, cioè, vi leggo due cose che Juan Martín Pérez García, che è il direttore dei diritti dei bambini in Messico, appunto ha dichiarato, cercando di rendere sempre più cercando di dare sempre più informazioni appunto riguardo a quello che sta succedendo, anche perché il governo messicano sta un po' ostracizzando e oscurando un po' questo fenomeno. Di fatto pochissimi sanno che adesso l'America Latina è diventata, insomma, passatemi il termine, la nuova Thailandia. Infatti lui dice: la Thailandia per molti anni è stata il centro del turismo sessuale minorile insieme alle Filippine, ma sono state apportate delle modifiche legali per ridurre le dimensioni di questo fenomeno. Da allora i pedofili hanno cercato i paesi con una base istituzionale fragile e li hanno trovati in America Latina, Repubblica Dominicana, Cuba, Colombia e Messico. E poi dice ancora: è un crimine basato sulla disuguaglianza, i settori più poveri sono quelli più esposti, i paesi che contribuiscono con più clienti del turismo sessuale sono quelli in cui queste cose sono più regolamentate e dove c'è maggiore conformità con la legge. In Messico ha omesso la sua responsabilità di creare reciprocità in modo che il crimine del turismo sessuale venga perseguito in quei paesi. L'impunità continua a svolgere un ruolo cruciale nell'esistenza, nella diffusione di questo tipo di crimine. E, insomma, quindi, cioè, quello che lei vuole sottolineare è appunto che fondamentalmente si va in Messico perché è il paese meno controllato ed è molto più facile. E soprattutto ci sono dei grandissimi casi appunto di povertà, e la povertà è un po' una causa ancora maggiore, esatto, di questa causa. Ma non solo, poi oltre al fenomeno della prostituzione, quindi il turismo per pedofilia, fondamentalmente appunto il turismo sessuale minorile, c'è anche la grande questione dei matrimoni, appunto, perché appunto per via della povertà vengono vendute legalmente bambini e bambine. A dire il vero non posso dire che non ci siano i bambini, però circa il 90% dei casi casi di matrimoni infantili è legato al genere femminile. E appunto, nonostante appunto sia per molti stati appunto questo costituisce una grande violazione dei diritti umani, in Messico questa pratica non è penalizzata e anzi appunto, ripeto, è ancora legale. E tuttora, giusto? Sì. E infatti dice: le leggi non sono solo quadri d'azioni, quindi è molto importante avanzare una battaglia culturale per riconoscere le ragazze, le donne e le bambine come cittadine a tutti gli effetti, e quindi che possano decidere sul proprio corpo e sulla propria vita. E ciò accade attraverso i diritti sessuali e riproduttivi. Certo, perché poi questo viene portato avanti. Quando si sposano perdono qualsiasi diritto umano, no? Sì, queste ragazzine. Esatto, ma lei racconta appunto che il grande fenomeno è il fatto che vivono magari in grandissime, in piccole case, ovviamente vengono vendute per la dote, vengono vendute per appunto perché si è in situazioni di un grande malessere, grande disagio, grande povertà, e non c'è assolutamente nessun tipo di tutela. E quello che Perez continua a sottolineare è che la battaglia non è soltanto dal punto di vista legislativo, perché sì, si possono cambiare le leggi, ma se non viene cambiata la mentalità e quindi l'aspetto culturale legato a questo fenomeno, non si andrà da nessuna parte, perché questo continuerà appunto ad andare avanti. Però è gravissima la situazione in questo momento, perché il turismo sessuale infantile sta aumentando sempre di più, stanno aumentando da parte dei narcos, anche lo sfruttamento, vengono venduti anche gli organi, insomma. Sì, la donna come merce di scambio praticamente. Sì, esatto, le bambine sono una delle più grandi merci di scambio in Messico. Sì, come se fosse una cosa. E questa cosa non viene sottolineata, non è conosciuta. Non ho capito, ragazze, scusate. No, dicevo che è come se è vista come una cosa, non come una persona. La sì, donna. Esatto. La esatto. Famosa donna oggetto. E infatti lei teneva a dare appunto un'informazione su quello che sta succedendo, perché cioè c'è stato proprio un cambiamento radicale nelle tratte, insomma, da parte del turismo sessuale, e adesso verte di più verso il centro e Sud America, perché sta diventando sempre più si sta impoverendo, le politiche cambiano e la tutela, comunque, se nel resto del mondo viene dato per scontato, non è così, non è assolutamente così, e è molto pericoloso questo momento. Cioè, i bambini non escono di casa perché hanno paura di essere rapiti. Incredibile, cioè, immaginatela se... Scusami. Dico, incredibile come si parli di turismo sessuale, cioè il turismo che dovrebbe essere una cosa positiva, turismo sessuale, è una parola orribile. Non è orribile. Oltre al turismo sessuale, è un turismo sessuale infantile. Esatto, esatto, infantile. Quindi, certo, siamo veramente, esatto, è assurdo come ancora oggi questo sia estremamente praticato. E niente, appunto, io volevo dare voce un po' alla testimonianza di questa, ricordiamola, amica che saluta, si chiama Violetta, e lei poi ve la presenterò, insomma, e lei è molto incazzata, ve lo dico. Immagino, veramente, certo, molto incazzata, è veramente molto incazzata. Sì, allora... Legato a questo vi butto soltanto questa cosa: ieri ho visto un film su appunto le spose bambine nello Yemen, però altro paese dove vede donne e bambine estremamente come oggetti, e in questo momento sta succedendo un gran macello. E vabbè, comunque c'è questo film che si chiama La sposa bambina, che vi invito a guardare, così si capisce, insomma, è un altro punto di vista, sì, sì, di un altro paese, però estremamente uguale. Certo. Mi è capitato di vedere il trailer, anch'io consiglio questo film, non l'ho ancora visto, ma credo che lo guarderò. È agghiacciante. Sì. Ed è anche fatto molto, sembra essere fatto molto bene. Sì, ha un'ottima fotografia, sì. Però qua... Stavo per dire la stessa cosa, un'ottima fotografia, mi hai proprio tolto, esatto, le parole di bocca. Ma te, quindi noi artisti divaghiamo. Che divaghiamo sulle immagini. Va bene, grazie Andrea, grazie per aver portato le parole di Violetta? Sì, Violetta. Sì, sì. Che ringraziamo anche lei e salutiamo. Grazie, sì, mille. Allora, grazie adesso... a voi, ragazze. Grazie per queste pillole dal Messico. Ciao. Ciao Andre, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ma io direi di volare subito in Uzbekistan. Ma direi, direi di sì. Io visto direi... che il tempo stringe, stiamo diventando lunghissimi. Stiamo diventando veramente sbrodolanti. La tematica è veramente davvero pesante, però ce ne sarebbe davvero da parlare per anni. Va bene, allora io spero che la nostra Giulia sia sul pezzo e pronta a risponderci. Vediamo. TikTok, TikTok. Pronto? Eccola. Ecco Giulia, la nostra ribelle. Scusate che spengo la diretta, che qua sennò... Rimbomba. Esatto, mi sento da sola, poi succedono cose così. Problemi tecnici, si sentiva tutto bene, tu che sei sì, online? Sì, sì, devo dire che sì, l'ultima parte si sentiva benissimo, da Alessia, sì. Ricordiamo i nostri ascoltatori che potranno risentire il podcast. Però ci piace l'idea, esatto, che comunque funzioni live. Ecco, appunto. E magari vogliamo ricordare anche i canali? Ricordiamo i canali. Che non li abbiamo ancora ricordati. Ma certamente, visto che comunque me li sono segnati perché la mia mente divaga. Allora, il canale Telegram per scriverci live, Radio Zam-chat, Facebook, Radio ZM, Instagram, chiocciola, le-ribelli-zam e il nostro sito internet www.zam-alto-milano.it. Madonna mia, impeccabile. Sembra aver detto tutto. Sono invece emozionata. Adesso diamo la parola a Giulia che ci parlerà di un esempio di colonialismo sul corpo in Uzbekistan. Tu sì. Ci sei stata, Giulia? Esatto, sì, sono stata in Uzbekistan a settembre, stavo viaggiando lungo la Via della Seta e con mio compagno e siamo stati anche in Uzbekistan. Che viaggio meraviglioso, lo voglio fare anch'io, porca miseria, la Via della Seta è bellissima. Vero. Sì, uno spettacolo e poi soprattutto se si ha uno sguardo, beh, io non sono assolutamente un'antropologa, però comunque uno sguardo attento quando si viaggia via terra, si incontrano le persone, si parla, si conoscono le tradizioni. Che è così Sì, è un altro modo di viaggiare, certo, piuttosto che appunto il turismo intensivo, perché vai proprio a capire anche un po' come ci si deve comportare, come si comportano le persone e perché poi tutto ha sempre una ragione da qualche parte. Ed è proprio così che ci hai voluto parlare della tua esperienza e di quello che hai vissuto. Esatto, perché praticamente mi è venuto in mente quando stavamo parlando della puntata di un aneddoto che c'è capitato. Un incontro con due ragazzi che hanno deciso di, praticamente noi dovevamo andare a prendere un taxi collettivo e sul pulmino per arrivare a una città che si chiama Urgenk, eravamo a Civa, dovevamo andare a Urgenk, il pulmino tra Civa e Urgenk troviamo questi due ragazzi che parlavano un ottimo inglese perché lavoravano nel settore turistico, perché altrimenti in Uzbekistan l'inglese scordatevelo, un po' di russo se va bene, se no gesti oppure Google Traduttore che è sempre l'amico fidato. Quindi praticamente questi due ragazzi hanno deciso di aiutarci e ci hanno accompagnato dalla stazione degli autobus alla stazione dei taxi collettivi. A parte il fatto che ci hanno detto che erano 5 minuti e abbiamo camminato mezz'ora sotto il sole cocente, ma a parte questo, a un certo punto camminando lungo un vialone, immaginatevi come un parchetto di una scuola, ok, con una rete, e di fianco a questo parchetto c'erano due ragazzini che erano palesemente al loro primo appuntamento, cioè immaginatevi l'imbarazzo totale di due ragazzi che escono la prima volta, tutti timidi, gambe incrociate, braccia incrociate, sguardo basso, così. Allora abbiamo deciso di chiedere a questi due ragazzi, di cui onestamente non ricordo minimamente i nomi, ma ricordo che avevano 24 anni, gli abbiamo chiesto, scusate ma... sono al primo appuntamento, così per fare due ma chiacchere. Proprio questa domanda così. Sì, vabbè, perché poi il mio compagno Guido è molto curioso, lui fa sempre tantissime domande, quindi a bruciapelo. mi è subito venuta questa domanda e il ragazzo ci ha detto sì sì, loro sono al primo appuntamento, perché qua funziona così: il primo appuntamento di solito lo si fa in un luogo appartato perché è la prima volta in cui ci si conosce. E noi, no scusa, cioè cosa vuol dire che non, tu non hai mai visto la ragazza, cioè non, i ragazzi non si sono mai visti prima di quel momento? Allora lui ci ha spiegato che brevemente, insomma, che praticamente cosa succede? Oggigiorno, quindi parliamo 2019-2020, un ragazzo tendenzialmente verso i suoi 20-25 anni sceglie una ragazza che gli piace. E vedremo che poi questo è già un passo avanti rispetto a prima. Comunque, lui sceglie una ragazza che gli piace e lo dice alla sua famiglia. La sua famiglia contatterà la famiglia della ragazza, che ovviamente non ne sapeva niente, e non è la ragazza a scegliere se il ragazzo va bene per lei, ma è la sua famiglia. Cioè, famiglia del ragazzo contatta famiglia della ragazza e la famiglia della ragazza decide se accettare o meno il fidanzamento. Questo poi verrà comunicato alla ragazza. Se appunto il fidanzamento viene accettato, i due ragazzi si incontreranno due o tre volte fuori casa, in luogo pubblico, tendenzialmente appunto per strada, come quelli che abbiamo visto noi, per conoscersi, per parlarsi e per iniziare ad andare d'accordo, perché poi dovranno sposarsi. Allora poi abbiamo, devo dire che più Guido che io abbia continuato un po' con le domande scomode e alla fine è venuto a porre un altro dettaglio che però ci ha ricordato qualcosa che succedeva anche in Italia, tempi addietro, che praticamente i genitori del ragazzo pagano una prostituta uno o due volte in modo tale che lui possa arrivare preparato al matrimonio. Certo, cioè, se esco, beh certo. Ma certo. Sì. Quindi praticamente come abbiamo fatto ragazzi... a non pensarci prima. Ma veramente, ma guarda un po'. Come abbiamo fatto a non pensarci prima. Però poi in realtà abbiamo scoperto questa cosa parlando un po' con i nonni, eccetera, succedeva anche in alcune zone d'Italia, perché magari appunto i genitori pagavano una prostituta al ragazzo per imparare a fare sesso fondamentalmente. E questo ragazzo ce l'ha detto come, cioè, era orgogliosissimo della cosa, cioè per lui era normalissimo, no? sì l'ha proprio detto apertamente, fa i miei genitori mi hanno pagato una prostituta e mi hanno pagato una prostituta perché così arrivo preparato alla prima notte di nozze, non posso fare una brutta figura. E ovviamente la mia domanda è stata: sì, ma scusa, ma la ragazza? No, esatto. Cioè, il problema è questo: cioè, solo tu, no, la ragazza rimane lì, non deve essere preparata assolutamente. No, e lui ha detto: ah, no, la ragazza deve arrivare vergine al matrimonio. Certo. Quindi anche qui, come abbiamo cosa... fatto a non pensarci, esatto, che le deve arrivare vergine? Come abbiamo fatto a non pensarci? Ovviamente i commenti poi sono privatamente, ne abbiamo fatti aiuta, però è stata quella cosa che ci ha un po' sconvolto. Noi ridiamo molto di questa conversazione, anche se poi io sono andata a fare delle ricerche per capire la motivazione, no, di questa cosa, che di questa tradizione, che questo ragazzo ci ha raccontato in modo molto naturale, tutto ciò perché lui si sarebbe sposato dopo pochi mesi, quindi la stava vivendo questa esperienza sulla sua pelle, e c'è proprio la semplicità, la naturalezza con cui lui ci ha raccontato questa cosa, cioè è assolutamente normale, anzi era strano vedere noi non sposati stupiti in giro, perché comunque noi gli abbiamo detto che non eravamo sposati. E lui si chiedeva perché, anche perché noi abbiamo, l'anno scorso avevamo 29 anni e a 29 anni devi già essere bello sposata e avere figli, quindi certo. Niente, vi do proprio, questo è stato un po' il racconto, noi appunto un po' ridiamo di questa cosa perché la naturalezza, la spontaneità con cui lui ci ha raccontato che, di questa cosa ci ha fatto molto ridere. Ma scusa, ma voi come reagivate alle loro risposte? Cioè il vostro atteggiamento, cioè cercavate di mantenere una specie di self control o no, come no, avete no, reagito? Abbiamo reagito sorpresi, e abbiamo reagito, però non abbiamo riso, cioè non prendendo in giro. Sì, non giudicando, comunque, certo. Non abbiamo giudicato questa cosa, abbiamo poi fatto i nostri commenti in privato, perché vabbè, quello è normale, penso, però con loro abbiamo fatto un paragone, semplicemente. Cioè, quando loro ci dicevano cosa succedeva da loro, noi gli dicevamo cosa succedeva da noi. Esatto, avete fatto benissimo, giusta questa posizione. Questo è stato, nel senso che abbiamo proprio risposto così, in modo semplice, come una conversazione tra coetanei che però vivono in due mondi diversi, insomma. Sì, perché comunque penso sia difficile mantenere, è un argomento molto delicato, quindi mi immagino, sì. Mi metto un po' nei vostri panni. Cioè, scusa, sì. Posso chiederti farti una domanda, Giulia? Ma poi io dentro di me stavo esplodendo. Certo, e questo sarà stato sicuramente difficile mantenere una... Ma quando ti ha detto... La mia anima femminista stava per azzannarla alla gola, però... Ma volevo chiederti, Giulia, ma una volta che lui ti ha detto, beh, per me è normale così, è normale che l'uomo, cioè che il ragazzo prima faccia esperienza con una prostituta, quando voi avete detto, ma lei? Loro hanno risposto? Sì. Mi sono persa questo passaggio. Hanno detto, no, per la ragazza questa cosa non avviene, la ragazza deve arrivare, giusto, la ragazza sì. Prende, cioè, lo farà con me la prima volta. Sono completamente cotta, ho anche risposto. Ma sì, ma siamo qui giusto da... esauriti Jay. È così, questo succede... Allora, io sono andata adesso brevemente, sono andata un po' a ricercare le motivazioni di tutto questo. Allora, innanzitutto, in Uzbekistan dal 1998 l'età legale per sposarsi sono i 18 anni. Invece prima del 98 per l'uomo erano i 18 anni e per la donna 17, questa cosa non l'ho proprio capita. C'è sempre una dissonanza. Ma esatto. Però spesso questa cosa non fu e non è rispettata tutt'oggi, nel senso che nelle zone più rurali, l'Uzbekistan è un paese principalmente desertico, che ha subito anche un forte processo di desertificazione, quindi le zone rurali sono rimaste veramente isolate in mezzo al deserto. E nelle zone comunque più rurali leggevo di un report dei diritti umani che spesso le ragazze vengono fatte sposare anche a 14-15 anni. Perché sono pratiche, il matrimonio viene portato avanti a livello religioso e non a livello statale, quindi spesso poi lo Stato non sa neanche che è avvenuto il matrimonio, fino a quando magari i due sposi non si presentano per registrare il bambino. Quindi avviene tutto magari nelle moschee, in privato. Cioè, in privato fino a un certo punto, perché un matrimonio uzbeko, ragazzi, dura 4 giorni. Sì, come altri matrimoni in realtà, nel giro del... mi sembra che anche in Grecia c'è un po' questa usanza. Ma infatti ultimamente, perché poi ovviamente quasi tutte le spese del matrimonio sono a carico dello sposo, cioè come se lo sposo comprasse la sposa, perché paga tutto praticamente, 4 giorni di festa, cioè bisogna anche essere ricchi per potersi sposare, perché altrimenti non puoi sostenere tutte le spese. Però comunque hanno un concetto un po' diverso di famiglia, cioè la famiglia è allargata, tutti contribuiscono, quindi è una cosa un po' diversa. Ma perché questo è rimasto oggi? Perché praticamente durante l'occupazione sovietica, i sovietici con la rivoluzione bolscevica del 1917 hanno poi insomma si sono imposti sulle loro colonie, fondamentalmente su tutta la l'Unione Sovietica, che non era Russia, come i liberatori della donna. Cioè loro hanno detto il nostro sistema, la donna è e deve essere libera e uguale all'uomo. Bellissimo concetto, ovviamente siamo tutti d'accordo, il problema è che se tu lo imponi e questo concetto non si radica nella società, nel momento in cui tu, occupatore, te ne vai... Certo, ritorna tutto come prima. il risultato è l'opposto. Certo. Cioè è il rigetto dell'occupazione. Uh-huh. E se l'occupazione mi ha imposto l'uguaglianza di genere, io rigetto l'occupazione e rigetto l'uguaglianza di genere. Quindi nel 91 siamo un po' tornati indietro, perché questa uguaglianza era stata, e anche uguaglianza a livello di salari, a livello lavorativo, a livello di famiglia, praticamente è stata imposta ma non si è radicata fondamentalmente. Si è mantenuta in alcune leggi, perché comunque dalla disgregazione dell'Unione Sovietica chi ha preso il comando in Uzbekistan era comunque faceva parte della vecchia guardia sovietica, quindi hanno comunque mantenuto delle leggi come il codice civile della famiglia eccetera, dove c'è l'uguaglianza tra uomo, dove è stabilita l'uguaglianza tra uomo e donna davanti alla legge. Il problema è che poi nella vita di tutti i giorni spesso queste leggi non vengono rispettate. Perché lo Stato, spero di essere stata chiara, ma lo Stato cosa ha fatto nel 91? Quando i sovietici se ne sono andati, hanno detto: attenzione, noi dobbiamo creare un'identità statale, dobbiamo tornare alle tradizioni. Però tornare alle tradizioni voleva dire praticamente abolire tutti i diritti che erano stati messi. Quindi hanno fatto un pasticcio, per metterla in modo semplice, di certo non è una parola politica, però cioè hanno messo delle leggi che dicevano una cosa, ma dall'altro canto hanno tirato fuori slogan del tipo: torniamo alla tradizione perché solo lì troveremo la vera realtà uzbeka. Capisci che queste cose vanno in conflitto tra di loro, e poi è difficile far applicare le leggi, soprattutto in zone remote dove la religione poi, sempre perché è oppressa durante il periodo sovietico, è tornata in auge più forte di prima, sicuramente. Quindi dal punto di vista, vogliamo chiamarlo così, del colonialismo sovietico, non è che hanno fatto un buon lavoro, perché sì, hanno messo le basi di qualcosa ma non le fondamenta, e quindi poi le persone, anzi, l'hanno rigettato proprio perché era un'eredità sovietica l'uguaglianza di genere, quindi ha fatto l'effetto opposto. E niente, l'ultima cosa che voglio dire, comunque in Uzbekistan ci sono tanti movimenti, c'è un movimento molto forte di modernizzazione islamica che lotta per i diritti delle donne, che andando in parallelo però con la religione islamica, appunto, e i credi religiosi e quant'altro. Questo movimento esiste già dall'inizio del Novecento, ma non è mai stato preso in considerazione neanche dai sovietici, e non è preso molto in considerazione neanche adesso, quindi confusion. È difficile comunque la convivenza tra tutti questi, come si dice in italiano, tra la cultura, eredità, la religione, insomma, mettere d'accordo, sì, sempre le leggi, lo, sì, Stato, sì, e... sì. Leggi, Stato, religione, eredità, non far sembrare quelli che eravamo prima, o ma essere diversi dai sovietici, cioè è un'identità nazionale difficile comunque di uno Stato nato nel 1991, perché questo è, quindi è in itinere, secondo me, in progress, come si suol dire. Vedremo quello che va bene, succederà. Giulia, guarda, ci hai veramente illuminato, come sempre, e ti ringraziamo, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, ragazzi, questa puntata super molto tosta. Sappi che ti aspettiamo qui a ZAM appena live sarà possibile. Hanno aperto le regioni, quindi potrò venire. Perché ricordiamo ai nostri spettatori, sì, vabbè, al nostro pubblico, che i nostri ascoltatori sono abituati al teatro, ai spettatori, vabbè. Esatto. Che sei una ribelle anche tu, quindi sì, ti aspettiamo. Il Piemonte per il momento. Grazie mille. Va bene. Assolutamente. Va bene, ragazze, grazie mille. Ciao, grazie, Giulia. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Oh, va bene, io direi che possiamo mettere due canzoni, una un po' più che non sono un gruppo messicano, però sono un gruppo spagnolo, ma vanno bene lo stesso, un po' spagnol. E anche una canzone che ho trovato in uzbeko. Ma dai, sì, ma che pillola! Sì, sono molto belle, le facciamo partire una dopo l'altra. E poi ritorniamo a casa per le ultime pillole e i saluti. Papini. Paso al frente, tomando escenarios no vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes, dando un paso al frente. Pregunte que te respondo una estrella. Serás algo de ti mismo si así lo quisieras. Como yo también soy papi si así lo decidiera. O somos compañeras o no las has entendido. Tú no eres mi papi ni nunca lo has sido. Aquí muchas tenemos una porción de todo. Si prestas atención me entenderás ese modo. A veces principio activo, otras pasivo. Juguemos el yin y el yang con tu lado femenino. La sientes, la siento, así como te digo. Tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. No eres nada mío, yo soy la que lo lío. Bueno, pues no he sabido esto caserío. No eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente. Liberta libre, ardiente, por todos los continentes. Poco llanto y la gente que te alente. Que llegue sin jefe, si me quedes que le ofrece mi sí. Tú no eres mi papi, yo soy tu elixir. Yeah. Eccoci, eccoci qua, tornate. Abbiamo ballato questa canzone. Che adesso... Tecla mi vuole per forza far parlare in uzbeko. Vabbè, ma dobbiamo annunciare al pubblico. Ma certamente i titoli. Sono una grandissima esperta di lingua uzbeka. Questa canzone fortunatamente è scritta in inglese, così, perché appunto l'ho presa da YouTube e ho letto il titolo, meno male che era in inglese, così almeno ho capito di cosa stavo ascoltando. Si chiama Song of Uyghur Girls from Uzbekistan. Quindi sono salvata in corner. In corner proprio. E mentre invece la canzone di prima era dei Tremenda Khwaria. Khwaria, è sempre bello dire questo. Che hanno anche cantato Zam. E io ho anche fatto il DJ set dopo il loro concerto. Cumbia transfemminista. Reggaeton. Voce fuori campo, Gioia, di Gioia, campo, che è sempre qua con noi. Esperta di cumbia e reggaeton, sono, Gioia, Lady G. C'è anche della cumbia nelle loro canzoni. Certo. Assolutamente, è giusto. Bene. Volevamo fare, sempre partendo da questo terzo punto sullo sguardo sul mondo, il colonialismo sul corpo international, ho trovato nel dossier che ci ha regalato Maya, gentilmente, che tra l'altro è un dossier bellissimo da leggere, e faremo nel podcast, secondo me conviene mettere anche questo link, esempi di matrimonio precoce in vari paesi. Adesso vi leggerò molto brevemente, perché comunque la puntata è stralunga, però mi sembrava giusto leggere questi piccoli trafiletti. Allora, in Rajasthan, in India, sopravvive ancora l'usanza di far sposare bambini molto piccoli. Nel giorno di Akatej, non so se l'ho pronunciato bene perché l'indiano non lo so, di buon auspicio, si celebrano nozze di massa tra ragazzi e ragazze molto giovani. Dal punto di vista dei genitori, questo è il modo tradizionale e sperimentato di organizzare la trasmissione della proprietà e del patrimonio nella famiglia. Una percentuale ridotta ma significativa dei bambini ha meno di 10 anni ed alcuni hanno appena 2 o 3 anni di età. Mi stanno venendo i brividi. In Niger, un recente studio dell'UNICEF su 6 paesi dell'Africa occidentale ha rilevato che in Niger il 44% delle donne tra i 20 e i 24 anni si è sposata prima dei 15 anni di età. Le principali ragioni addotte sono l'esigenza di rispettare la tradizione, di rafforzare i legami tra le comunità o all'interno di esse e di proteggere le ragazze dalle gravidanze al di fuori del matrimonio. Nelle comunità prese in esame, tutte le decisioni su chi e quando sposare vengono prese dai padri. Ovviamente in logica patriarcale siamo sempre qua che ne stiamo parlando. In Bangladesh, molte ragazze del Bangladesh vengono fatte sposare subito dopo la pubertà, in parte al fine di liberare i genitori da un onere economico ed in parte per proteggere la purezza sessuale della ragazza. Quando una ragazza è di famiglia molto povera oppure ha perduto i genitori, può andare subito in sposa ad un uomo molto più anziano di lei come terza o quarta moglie ed assumere il ruolo di serva sessuale o di domestica. Sembra una pubblicità. Albania. Incredibile. Le famiglie delle aree rurali, ridotte in condizioni di abietta povertà dalla transizione post-comunista, spingono le figlie a sposarsi precocemente per non lasciarsi sfuggire i potenziali mariti prima che essi emigrino verso le città alla ricerca di un lavoro, quindi la fuga dei cervelli, no? E per evitare il rischio che le ragazze vengano rapite mentre si recano a scuola. Poverine. Cioè, ma è molto ragazzi. Meglio farli fuggire questi cervelli, direi. E niente, lo sguardo verso il mondo è sempre molto esaustivo, è sempre molto positivo. Vorrei per ultimo punto parlare, non meno importante assolutamente, degli Stati Uniti. Sul canale Facebook di Non Una Di Meno Milano, ieri è stata... come dire, è stato postato un video di questa ragazza nera, adesso sto un po', anzi ritorniamo proprio al punto principale. Ovviamente in questi ultimi giorni si stanno vedendo sempre più proteste in tutto il mondo, soprattutto in America, dopo la morte di George Floyd, questo uomo di 46 anni, nero, ucciso, soffocato da un poliziotto. Proprio per questo, giustamente, le proteste stanno avendo un eco assurda, assolutamente legittima e molto feroce. In risposta a questo omicidio, sono rimbalzate un sacco di testimonianze. Questo video di questa ragazza è uno di questi, postato sul canale di Non Una di Meno Milano. Questa giovane attivista donna afroamericana, durante le proteste per l'assassinio di George Floyd, sotto il quale si è scatenato il putiferio, una shitstorm incredibile, è stato anche uno dei video più visti e commentati dal canale. La giovane donna dice semplicemente: per più di 300 anni siamo stati pacifici, anche ora siamo qui in maniera pacifica a protestare, sediamo sull'erba e sulle strade, però sulle strade di questo paese si è sparso il sangue dei miei fratelli, delle mie sorelle, io stessa ho perso 3 fratelli. Lei si rivolge direttamente al poliziotto che gli sta urlando addosso, e lei risponde: ma perché loro sono qui? E si sta riferendo al cordone infinito di poliziotti antisommossa pronti a massacrare di botte. Se siamo qui, lei dice, è per causa loro. Sono stanca di essere pacifica, non me ne starò seduta se devo morire solo perché sono nera. Vorrei leggervi alcuni dei commenti che ho trovato sotto questo post, sono abbastanza aberranti, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Se magari fossero meno delinquenti, vivrebbero più a lungo senza dover ogni volta pensare al razzismo. Non prendiamo il colore della pelle come scusa per dire cavolate, questa è una risposta. A lei dopo hanno sparato? Molti italiani che sono disgustati dall'omicidio del povero Floyd sono gli stessi che si augurano l'affondamento dei migranti quando la rotta è l'Italia, coerenza zero. Qui invece si continua a festeggiare il giorno della memoria, anche questo è un altro bellissimo esempio di intelligenza e di antirazzismo. Se ne stessero a casa loro invece di rompere i coglioni, potevano protestare quando invece di comprare armi i loro governanti potevano fare altre cose. Vedo tante persone indignate per la morte di un nero, ma se fino a ieri tutti volevano affondare i barconi carichi di disperati che venivano dall'Africa. Sono aberranti davvero. Io vi rimanderei tutti ai vostri i vostri paesi, punto, europei in Europa e africani in Africa, punto, in Nord America c'è di tutto tranne che noi nativi, ovvero i veri americani. È un italiano, devo dire, perfetto, che poi la maggior parte dei commenti sono scritti da trogloditi. Nelle scuole ci vorrebbe un progetto educativo, ma contro i politici e non contro il razzismo, perché ovviamente certo. Il razzismo non esiste. Esatto. Buongiorno, il vero problema è l'America, tutto qui in tutto. Tutto qui in tutto. Quant no sport caps de asterisk. Questo è veramente questo ha vinto. Impegnato. Sì. Io penso che tutti i negros che sono in Stati Uniti è momento e ora di tornare a casa, Africa originaria, paese qui, abbiamo problemi ma saranno nostri. Oh mamma mia. Grazie. Peccato non poter leggere i nomi di questa gente. Sarebbe da rispondere quasi. Fatti una cultura. Io sono abbastanza senza parole e davvero questo è davvero anche difficile riuscire a contenere tutta questa rabbia ingiustificata. Linguaggio d'odio. Sì, linguaggio d'odio, che tra l'altro è stata anche la tematica penultimo argomento della scorsa puntata. Insomma, ragazzi. Direi che siamo arrivate alla chiusura. Cosa dici, cara Lady J? Ma sì, dai, chiudiamo questa puntata. Chiudiamo così, in bellezza, con scioltezza. cosa facciamo? Vi mandiamo una, una canzone, poi salutiamo, risalutiamo definitivamente. Sì. Dai, mandiamo questa canzone un po'. Chi l'annuncia? Chi l'annuncia? L'annuncio sempre io. L'annuncio sempre tu, dai, sei tu la DJ. E il Chan Chan. E Chan Chan. Iseo e Dodo Sound. Il razzismo non fa respirare, è come polvere nell'aria, sembra invisibile, anche quando ti toglie il respiro fino a farti soffocare. Se si fa entrare il sole invece riesci a vederlo, è ovunque. Fino a quando faremo luce, avremo la possibilità di eliminarlo ovunque esso sia, ma dobbiamo essere vigili, perché è sempre nell'aria. Karim Abdul-Jabbar. Con queste parole volevamo, prima di salutarvi definitivamente, lanciare il corteo che ci sarà il 7 di giugno alle 16 in Piazza Duca d'Aosta, in stazione centrale. Che sarà appunto, mi ricollego a quelle poche parole che ho detto prima sulla vicenda di George Floyd. Vi invitiamo tutti al corteo, magari alla manifestazione che ci sarà domenica, e vi salutiamo. Vi salutiamo, sì, e ricordiamo tutti i nostri interventi della puntata di oggi. Abbiamo avuto la nostra carissima compagna studentessa Maya, studentessa di Gender and Law. Mi piace troppo dire. Sì, è bellissimo dire Gender and Law. Che ci ha parlato del caso Assunta Casella. Poi abbiamo avuto la nostra regista Alessia, che ci ha parlato dello spettacolo No, Storia di Franca Viola e del caso Franca Viola, i bellissimi audio dell'attrice Sara Urban. E ringraziamo Andrea e Giulia delle Ribelli, che ci hanno dato il loro sguardo sul mondo. Esatto, direi che è stata proprio una puntata eterogenea al massimo, proprio super. Ringraziamo anche Giulia Mercu e Gioia che ci hanno sostenuto alla regia, e ringraziamo anche voi che ci avete ascoltate, bambini, e buonanotte. E ci vediamo un cavolo, ci vediamo. E ci sentiamo giovedì prossimo per la prossima puntata delle Ribelli. Ciao. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. No. millions. He's straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucker, you mean John Wayne? Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped, cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you looking for nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here.